5L. Ascolta e trasforma. Quella volta perché non obbedisti? Quella volta perché non obbedisti? Quella volta perché non apristi la porta? Quella volta perché non apriste la porta? Quella notte perché non dormisti? Quella notte, perché non dormisti? Quel giorno, perché non digeristi? Quel giorno, perché non digeristi? Quella mattina, perché non partisti? Quella mattina, perché non partisti? In quell'occasione, perché non applaudisti? In quell'occasione, perché non applaudisti? Quella sera, perché non chiaristi l'equivoco? Quella sera, perché non chiaristi l'equivoco? Quella volta, perché preferisti non rispondere? Quella volta perché preferiste non rispondere?